Essere e benessere di Nicoletta Carbone. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuno aggiungere anni alla vita, questa ce l'abbiamo fatta. La speranza di vita ha compiuto progressi, noi donne battiamo gli uomini 84-79, ma va bene. Però possiamo e dobbiamo fare di più, aggiungere anche vita a quegli anni, non solo quando iniziano a diventare tanti, meglio cominciare subito. Che dite? Intanto buongiorno da Nicoletta. Oggi parleremo proprio di questo, della nostra età, e immagino che vi state accorgendo che l'età anagrafica ha sempre più un valore strettamente burocratico. L'età vera è quella biologica, che dipende dalla salute di quelli che possiamo dire e definire i guardiani della nostra salute e del nostro benessere: il sistema nervoso, il sistema endocrino e quello immunitario, che sono intimamente correlati tra loro. Allora la domanda di oggi è: qual è la vostra età? Quale età vi sentite e quale età vi danno? Oggi, partendo proprio dalle vostre telefonate, scriveremo insieme una sorta di libretto di istruzioni per vivere bene nel presente e negli anni a venire, che ci auguriamo tanti, ma naturalmente ciascuno di noi deve fare la sua parte. L'importante è sceglierle, possiamo farlo. Ogni essere umano nel corso della propria esistenza può adottare due atteggiamenti: costruire o piantare. I costruttori possono passare anni impegnati nel loro compito, ma presto o tardi concludono quello che stavano facendo. Allora si fermano e restano lì, limitati dalle loro stesse pareti. Quando la costruzione è finita, la vita perde di significato. Quelli che piantano soffrono con le tempeste e le stagioni, raramente riposano. Ma al contrario di un edificio, il giardino non cessa mai di crescere. Esso richiede l'attenzione del giardiniere, ma nello stesso tempo gli permette di vivere come in una grande avventura. Paolo Coelho. Allora, cari amici, seminiamo e coltiviamo buone abitudini, meglio se piacevoli, ogni giorno. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Quale età avete, quale età vi sentite, quale età vi danno? I messaggi al 349 238 6666. Prima di presentare i nostri ospiti di oggi, voglio chiedervi e ricordarvi una cosa: scaricateci. Laura Vanossi mi ha detto di ricordarvelo: scaricate la puntata, si può riascoltare in podcast, è molto semplice, porta anche buono. In studio qua con me la dottoressa Paola Reverso. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. E il dottor Filippo Ongaro. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, dottor Ongaro, noi siamo il risultato dei nostri geni, dell'ambiente in cui viviamo e dello stile di vita che seguiamo. Quale di questi fattori però conta di più? Ma direi che senza dubbio gli ultimi anni di ricerca in ambito genomico confermano che quello che conta di più è l'ambiente ed è lo stile di vita che scegliamo. I geni sono qualcosa che noi ereditiamo, quindi hanno una caratteristica implicita di staticità, però noi abbiamo molta possibilità di accendere i geni buoni e di spegnere i geni cattivi, per dirlo in parole molto semplici, a seconda delle informazioni che diamo alle nostre cellule. Quindi lo stile di vita, l'alimentazione, lo stress, la sedentarietà, tante delle cose di cui parliamo spesso qui. Quindi gira e rigira, torniamo lì, sempre lì, a come mangiamo, a quanto ci muoviamo, niente di nuovo sotto il sole. Già Leonardo aveva scritto nella forma letteraria nota sotto il nome Regimen Sanitatis, dal Codice Atlantico, precetti igienici e consigli per vivere sano, seguendo le regole proprio della semplicità, che si basano sul principio che la buona salute si ottiene e si mantiene, prima di tutto, con una sana alimentazione. 1. Non mangiare senza voglia e cena lieve. 2. Mastica bene e quel che in te riceve sia ben cotto e di semplice forma. 3. Guardati dall'ira e fuggi l'aria greve. 4. Quando da mense ti levi di mezzogiorno, fa che tu non dorma. 5. Il vino sia temperato, poco e spesso, non fuor di pasto né a stomaco vuoto. 6. Non aspettar né indugiar al cesso. 7. Fai esercizio, sia di picciol moto. 8. Col ventre resupino e col capo depresso non star, e sta coperto bene la notte. 9. Il capo ti posa e tien la mente lieta. 10. fuggi lussurie e attenti alla dieta. Dottor Essere Verso, un genio questo Leonardo. Assolutamente sì. Anche in questo campo. Ma lei, leggendo questo decalogo, quali appunti si è presa? Vedevo che era molto attenta. Allora, quando ci viene voglia, non abbiamo voglia di mangiare, ma ci viene quella voglia di non so che, mettiamoci a cucinare, così almeno magari passa il momento, nel frattempo ci prepariamo qualcosa di buono. Poi cena lieve a volte la sera è l'unico momento in cui possiamo godere di questo cibo e di rilassarci. Beh, iniziamo magari con una bella insalata di verdure fresche, magari mettendoci dei pezzetti di frutta. Adesso abbiamo le mele, le pere. Perché toglie la più grossa. Toglie la più grossa, intanto mastichiamo. E poi soprattutto è da masticare. Come dice Leonardo, perché mastica bene. Infatti. Però lui dice quel che in te riceve sia ben cotto e di semplice forma. Quindi pochi intingoli ma cotti. Ma lui aveva altri problemi. Lui aveva problemi di igiene. Mangiavano sia a chilometri zero, ma adesso possiamo farlo anche noi. Ma lui aveva problemi appunto di igiene, quindi giustamente il suo consiglio per l'epoca. Però adesso gli chef ci insegnano a tagliare queste verdure a pezzi piccoli, a buttarle in una larga padella e a farle saltare rapidamente. In questo modo le possiamo unire alla pasta, che la nostra pasta si presta ad essere cotta al dente, e quindi mastichiamo bene e cotture veloci. Questo ci consente anche di prepararci qualcosa di rapido. Abbiamo proprio sentito qualche giorno fa, parlavamo di salive di masticazione. Il professor Barbanti ci ha ricordato i risultati di alcuni studi che dicono che la masticazione aiuta anche la memoria, per cui masticando a lungo si attivano, no, delle particolari funzioni e quindi ricordiamo meglio, quindi non solo gustiamo ma anche ricordiamo. E quindi l'invito per gli anziani di non cenare con un caffè latte, qualcosa di molle, ma di invitare anche le persone anziane a far andare la bocca, come si dice, dottoressa Reverso. Sì, gli anziani poi a volte hanno anche problemi di masticazione, però questo può, in questo caso si possono preparare delle zuppe e così anche le vitamine che vengono disperse nella cottura poi si recuperano, diciamo così. Fuggi lussurri e attenti alla dieta, dottor Ongaro. Beh, vorrei a me, che lei commentasse tutte e due queste voci. No, io sorrido perché è incredibile che tante di queste nozioni scritte qui, ricordate di Leonardo, siano così attuali per noi oggi. E viene un po' da pensare che la medicina del futuro comprenda anche un bel passo all'indietro, e anche questo è un tema di cui parliamo spesso, e quindi sicuramente quello che viene indicato qui è tuttora assolutamente valido. Il fatto che Leonardo pensasse già a fare esercizio, pensate, questo sta a significare che già a quel tempo ci si era accorti di che peso avesse la sedentarietà e le prime comodità che l'uomo in quell'epoca cominciava ad assaporare. Ora pensate un po', pensate che l'uomo primitivo camminava, si stima, 20-25 km al giorno. Noi oggi 20-25 km facciamo in macchina al giorno. Certo. Quindi è cambiato tanto e dobbiamo fare un passo indietro per riappropriarci. Infatti alla lei salute. Apre il suo libro, di cui gentilmente ci ha portato tre copie, Mangia che ti passa, PM Edizioni, con una frase di Ippocrate: fa che il cibo sia la tua medicina e che la tua medicina sia il cibo. Tre copie per tre ascoltatori. Tra poco vi attivo e vi dico che cosa dovete fare per ricevere questo libro a casa. 800 24 00 24, diteci la vostra età, diteci l'età che vi sentite e l'età che vi danno. Molti di voi mi stanno già scrivendo al 349-238-6666, ma io voglio sentire Gianna che ci chiama da Padova. Buongiorno Gianna, benvenuta. Buongiorno a lei. Allora, io ho compiuto 60 anni sabato scorso. Auguri. Grazie, ne ho proprio bisogno. Ed è stata per me una meta agognata, perché ho avuto 5 persone della mia famiglia che non sono arrivate a questa età, per cui mi sentivo tassata da questo. Pensavo che la cosa dovesse ripetersi, attendevo per 3 ore il mattino che arrivasse l'ora in cui mi avevano detto che ero nata. E ad ogni modo, a parte questo, io vi posso dire che di anni me ne sento 40 e in certi momenti me ne sento 20, a seconda di chi frequento, di con chi sto. Posso sentirmene 80 e se passo con persone depresse, se passo la giornata con persone che non hanno degli scopi, delle motivazioni, delle programmazioni della giornata. E me ne sento pochissimi quando sono in mezzo ai giovani, quando sono certo. In mezzo agli amici dei miei figli che mi coccolano e mi fanno sentire a volte anche bella. Non sono bella, non sono filiforme, non sono, sono una persona normale. Però se io esprimo il sorriso agli altri, gli altri me lo restituiscono. Lei dice una grande verità, Gianna, dottor Ungaro. No, sicuramente la cosa interessante è anche che questo è stato confermato da vari studi, quindi diciamo che per invecchiare bene una delle cose che bisogna fare è scegliersi gli amici giusti, e quindi non c'è dubbio che se noi stiamo assieme a delle persone che ci rallegrano e che fanno, diciamo, venire fuori la nostra emotività in termini positivi, abbiamo senza dubbio una qualità della vita maggiore, perché anche, come diceva la signora, un sorriso suscita una serie di risposte fisiologiche nell'organismo che sono tutte molto salutari. Quando dite, magari in occasione di una situazione, quando dovete svolgere un compito, beh, non ho più 30 anni, quando dovete prendere un autobus magari al volo, quando non riuscite a ricordarvi un appuntamento, quando l'idea di andare a prendere vostra figlia fuori dalla discoteca vi uccide? Mi metto lì e scendo e non avevo il coraggio, che solo davanti al locale 1.200-1.500 ragazzine, era un trionfo di apparecchi ortodontali, un trionfo di ferraglia. Dico, come faccio a entrare in questo locale? E stavo lì tipo maniaco, stavo così. A un certo punto questo faceva, mi vede e mi riconosce e mi fa, ma io vuoi entrare? Cioè, lui pensava che io fossi andato lì per andare a ballare coi fischelli. Mia figlia non c'è, ce ne andiamo per favore? Sì, vabbè, non c'è. All'uscita un pischello mi guarda e mi dice così. Oh, Fiore, ancora in giro stai, ma non eri morto? Grande, lui è davvero un mito. Allora, molti ascoltatori, dottoressa Reverso, mi dicono di ricordare che Leonardo era vegetariano. È vero? Sì, sì, sì. Anche lei è vegetariana. Sì, lo confesso. Quindi siete compagni. Ma dato che oggi cerchiamo di capire come invecchiamo, da che età iniziamo a invecchiare, dottor Ungaro? Da quando nasciamo? Adesso non vorrei dare una brutta notizia, però sì, tecnicamente, tecnicamente da quando io nasciamo. Non ho io non capisco. Anzi, da perché... quando siamo concepiti. Ancora prima, quando noi diciamo, ma invecchiamo, lo facciamo tutti, non è che di vecchiaia inizia a 60 anni, no, inizia subito. Diciamo che inizia subito, quindi, però... Facciamo amicizia con questa parola, sì, perché sì, noi sì. Vogliamo invecchiare bene, perché vogliamo vivere. È giustissimo, in realtà la vecchiaia è un processo fisiologico, comincia molto presto, l'inizio del decadimento fisico si calcola adesso che stia tra i 30 e i 45 anni, molto variabile da persona a persona, comincia lentamente questo declino, però è un declino assolutamente rallentabile, modulabile, e quello a cui dobbiamo puntare è il mantenimento di una funzionalità elevata. Ma noi ce la facciamo, un po' col seguendo Essere Benessere tutti i giorni, un po' con il nostro Daily Lab, di cui sia la dottoressa Reverso sia il dottor Ungaro sono sostenitori e scrittori. Ma io volevo sapere, cervello, cuore, muscoli, ossa, articolazioni, ci rendiamo conto, anche se non sei essere medici, senza consultare i risultati delle ricerche, che rispondono in modo diverso al passare degli anni. Ma che cosa possiamo fare? Come possiamo in qualche modo aiutarli a stare un po' tutti, invecchiare un po' tutti allo stesso modo? Perché è bello avere una testa che è bella, che funziona bene, ma se le articolazioni cedono un po', insomma, si fa fatica. Noi vogliamo, no? Invecchiare armonicamente. Ah, infatti è molto vero, del resto per gli anziani il problema per esempio di muscoli e ossa e articolazioni è un problema molto serio, che spesso comporta poi delle conseguenze cerebrali, perché se non posso più muovermi, non posso più uscire con gli amici, ecco che mi isolo e la qualità dell'invecchiamento diventa sicuramente peggiore. Quello che dicevi adesso è molto importante, cioè il bilanciamento tra tutti i sistemi è quello a cui dobbiamo ambire, ed è un delicato equilibrio tra l'utilizzo, quindi l'allenamento degli organi, che deve esserci per forza, e però un utilizzo eccessivo che dà un logoramento, un logorio che consuma i nostri organi. Quindi è un delicato equilibrio tra un utilizzo sano e un utilizzo eccessivo, quello che dobbiamo trovare, e ognuno di noi c'ha questo equilibrio in un punto differente. Noi oggi vogliamo tornare a parlare di nutrigenomica, perché vogliamo imparare a come utilizzare il cibo per attivare o disattivare i geni. Una cosa interessante è che il dottor Ungaro sottolinea anche nel suo libro che ormai l'impostazione dei geni come qualche cosa di immobile, statica, non è stata ormai superata, e oggi abbiamo la possibilità, scegliendo gli alimenti giusti, di aiutare, no? Accendere quelli che ci fanno comodo e spegnere quelli che in qualche modo ci potrebbero danneggiare, perché su questo terreno biologico può fiorire la malattia, ma noi vogliamo far fiorire la salute e il benessere. Dottoressa Reverso, tante volte con lei abbiamo parlato dell'uso delle spezie e molti studi dicono che contengono appunto dei nutrienti, delle sostanze che aiutano, ci aiutano a stare bene. Perché? Ma contengono polifenoli, antiossidanti. Beh, immaginiamoli come se le spezie, ma anche frutta, verdura, ma anche cereali integrali, legumi, tutti i cibi vegetali. Immaginiamo queste sostanze come se fossero delle scope elettriche. Sì. Che tengono pulite le nostre cellule. No, la cellula quando lavora produce degli scarti, così come noi quando cuciniamo li produciamo. Loro spazzano via, ne abbiamo bisogno, e quindi come noi abbiamo bisogno di tenerci sempre un ambiente pulito. E quindi come possiamo utilizzare questi cibi, queste spezie? Dove le possiamo mettere? Ci sono spezie, per esempio, come la curcuma, lo zafferano, che sono delicate, quindi possiamo anche darle anche ai bambini. Altre che invece sono già più saporite, come il curry, oppure la paprika, il nostro peperoncino. Ma possiamo giocarcele dove vogliamo. Dottoressa Reverso, però di queste spezie se ne mettono veramente a pizzichini, e poi si consiglia di metterli sempre a fine cottura per avere per godere appieno il sapore. Mm-hmm. La domanda sorge spontanea, ma com'è possibile che con un pizzichino di curcuma, anche aggiunto tutti i giorni, o di curry, io possa stare bene? Ma è la varietà, ripeto, queste sostanze così utili per la nostra salute sono contenute nella frutta, nella verdura, nei cereali, nei legumi, e queste possiamo mangiarne in quantità superiore. Poi ci sono sostanze che ne bastano veramente poche, un po' di qua, un po' di là, più noi variamo, gli antiossidanti sono tantissimi, sotto questo termine vengono incluse veramente tante sostanze, quindi più noi variamo più abbiamo la possibilità. Un esempio, noi abbiamo un ottimo olio extravergine d'oliva, va benissimo dappertutto, perché non lo usiamo anche per fare i dolci? Perché non ci uniamo anche un pochino di olio di noci? È vero, costa di più, ma un pizzico lo mescoliamo all'olio extravergine e magari la prossima volta che facciamo una crostata proviamo a farla così. Memorizzate i consigli della dottoressa Reverso, che con gusto e con piacere ci insegna a variare la nostra dieta e a rimanere in salute. E a proposito di memoria, negli ultimi anni, non so se lo notate anche voi, si assiste ad un sottile piacere che rasenta per certi versi la crudeltà a individuare l'età da cui il decadimento comincia, e spesso ci accorgiamo che l'età che viene citata nell'articolo noi l'abbiamo già superata. Ad esempio, quando abbiamo letto che il cervello inizia a perdere colpi a partire dai 45 anni, per molti di noi è quasi stato uno shock. La notizia è arrivata dal British Medical Journal, e d'altra parte è anche un po' vero, tutti noi ci rendiamo conto che qualche colpetto sarà per colpa della stanchezza, dello stress, tendiamo a perderlo. Mal comune mezzo gaudio, ma chi si arrende è perduto. In linea con noi abbiamo il professor Ian Noccari. Professore, buongiorno, bentornato. Buongiorno a te Nicoletta, ai tuoi illustri ospiti, allo staff e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ma lei è giovanissimo, neuropsicologo e presidente di Asso Mensana, che sta organizzando Mentathon, una maratona per i cervelloni e anche per chi cervellone non è. Allora, io non voglio chiederle se è vero che dai 45 anni le nostre funzioni decadono, perché io credo che se uno si tiene allenato questa età arriva molto dopo. Vorrei invece chiederle qualche esercizio per allenare la nostra mente, per tenere in funzione il nostro cervello. Gli stimoli lo aiutano? Lo aiutano e tendono a contrastare anche quella curva del decadimento fisiologico dell'invecchiamento che coinvolge anche il cervello. Per cui mantenendolo adeguatamente stimolato noi possiamo mantenere una buona efficienza mentale a lungo. E proprio per questo oggi vi propongo una seduta di ginnastica mentale e nello specifico vi propongo un esercizio di logica che serve per sviluppare, stimolare alcune aree localizzate negli emisferi del lobo parietale, del lobo centrale, del lobo frontale, del lobo temporale. Sì. Gli esercizi di logica che cosa fanno? Fanno in modo che vengano individuate nell'esercizio proposto delle regole. Sì. Quindi devono poi riorganizzare queste regole per dare una risposta nuova. Mi sento già un po' stanca, sarà difficile, non lo so, sarà che ho passato da poco i 45 anni. Senta, allora professore, qual è l'esercizio che ci pone? L'esercizio è il seguente, vi leggo quattro lettere dell'alfabeto. Sì. Queste quattro lettere si succedono seguendo una determinata regola. Il compito dei radioascoltatori è di individuare quale regola governa la sequenza, in modo tale che poi possano dare come risposta le quattro lettere che seguono questa, questa sequenza alfabetica. Proviamoci. Le lettere sono A come Ancona, Z come Zebra, E come Empoli, V come Venezia. Allora, dato che è un esercizio di logica, ma dobbiamo farlo anche un po' rapidamente, adesso sono le 11.30, professore Iannoccari, grazie, la riprendiamo tra poco. Entro le 11.45, prima quindi della viabilità, dobbiamo selezionare gli ascoltatori che all'800240024 ci hanno fornito la risposta esatta, quindi avete 15 minuti di tempo. Essere e benessere. Forse 5 anni fa era il più veloce, ma il tempo non perdona nessuno. E oggi è solo un po' più lento di come era una volta. Quanto a me, già lo sapete, sono all'apice della forma. Rimanere in forma, non hanno ancora inventato l'elisir dell'eterna giovinezza, ma ci stiamo arrivando, perché ne abbiamo a disposizione veramente sotto gli occhi, no? Scopriamo l'acqua calda, perché con il cibo possiamo aiutare il nostro corpo a mantenersi sano ed efficiente. È un po' quello che ci spiega la nutrigenomica, di cui il dottor Ongaro è un grandissimo esperto. Ma io credo che sì, il concetto fondamentale da ricordare è che, essendo le nostre cellule nei diversi organi fondamentalmente analoghe e condividendo un codice genetico che è unico, tutto sommato con la nutrizione noi abbiamo un intervento singolo che si dirama nel nostro organismo ad ampissimo spettro, quindi va a proteggere le ossa, i muscoli, il cuore, il vaso, il cervello, con caratteristiche diverse, ma partendo da un'alimentazione che è unicamente quella corretta. Quindi non abbiamo bisogno di pensare all'alimentazione per l'osso, l'alimentazione per il cuore, perché sennò dovremmo mangiare tutti i giorni o continuamente tutto il giorno, ma poi verrebbero fuori anche delle cose francamente contraddittorie, come ci sono state in passato. Quindi adesso una delle grandi passi avanti che fa la nutrigenomica è proprio quello di fare chiarezza, diventa tutto più coerente e la prescrizione alimentare molto più semplice per la persona. Quando ho chiesto ai nostri ascoltatori, quando dite non ho più 30 anni, in quale occasione, molti di voi al 349-238-6666 mi hanno scritto: beh, quando gioco a calcetto, quando gioco con i miei figli, quando mi arrampico in montagna. Ma tanti altri mi hanno scritto perché ormai non riesco più a perdere peso. Sembra un regalo degli anni, il metabolismo in qualche modo rallenta, noi diciamo così. Dottoressa Reverso, c'è modo, c'è una validità scientifica dietro a questo? È una scusa che utilizziamo noi per quando vediamo che insomma stiamo arrotondandoci un po', ed è una cosa che succede non solamente quando si è anziani, anzi quando si è anziani si tende a diventare di nuovo snelli, ma in quell'età, no? Tra i 30 e i 45 anni, che sono proprio l'età dei nostri ascoltatori, si tende a vedere che la bilancia, l'ago della bilancia sale o sta ferma e non scende mai. Ecco, allora si può dare una svegliata al metabolismo? Beh sì, direi proprio di sì. La prima cosa, facciamo colazione. Quanti di noi veramente fanno un'abbondante colazione? Se vogliamo svegliarlo questo metabolismo, cominciamo a dirgli: guarda che stamattina, che oggi io ti do tanto, quindi tu vai piano, vai tranquillo, nel senso non ti agitare, consuma le energie, trasforma quello che è il cibo in energia. E questo cosa significa? Dobbiamo svegliarci un pochino prima e insomma dobbiamo farlo pensando che è come se noi facessimo proprio un allenamento. Allora iniziamo la nostra colazione mangiando della frutta, della bella frutta fresca, e poi se a colazione abbiamo voglia di concederci, è l'unico momento della giornata dove veramente possiamo concederci. Che lo bruciamo subito. Lo bruciamo subito e possiamo quindi darci concederci quella voglia di dolce, ma magari un dolce fatto non proprio con lo zucchero. Possiamo preparare dei dolci buonissimi col succo d'agave, con lo sciroppo d'acero. Ricordiamoci che la frutta secca, dalle nocciole alle mandorle alle noci, la frutta essiccata, l'uvetta, le albicocche, ma anche si trovano adesso essiccati, sono buoni i mirtilli. le ciliegie, tutta questa frutta qui ci aiuta ad addolcire, tanto che lo zucchero non serve più. Farine, più farine noi usiamo, tipi di farine diverse, farine di farro, di camut, di avena, di orzo, magari un po' integrale, un po' bianche. La varietà. La C'è varietà. Anche il problema di chi proprio la mattina si alza e non ha voglia neanche di buttare giù il caffè. Dottoressa Reverso, questo possiamo dire, potete spostare un pochino più avanti la vostra colazione. Comunque l'importante è che al mattino, questo è il messaggio, il vostro organismo sia rifornito della giusta carica. E anzi, se abbiamo da toglierci una voglia, meglio la mattina e non alla sera, perché il cioccolatino, mi dica se sbaglio, mangiato alla sera davanti alla TV, finisce subito nella coscia. Siamo davanti alla TV, al mattino abbiamo la giornata. Da Giancarlo, che ci chiama dalla provincia di Roma. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno. Che età? Buongiorno. Che età si sente? Che età le danno? Allora, io ho 50 anni, in genere me ne danno almeno 5 di meno, ma soprattutto mi chiedono sempre, ma come fai a fare tutto quello che fai durante la giornata? Questa è una cosa che mi fa stare bene, diciamo. E lei lei che cosa risponde? Guardi, io dopo i 40 anni ho cominciato ad avere un po' di tracollo psicologico dovuto proprio ai primi problemi che si hanno, no? Uno non può giocare più al calcetto, non può fare più quello o quell'altro... Sì. Niente, praticamente diciamo un po' la formula mia è ovviamente sport, non abbandonare mai lo sport, prendo sempre il tempo per farlo, lasciando anche un po' da parte il lavoro, perché è importantissimo, perché poi si lavora di più, stando bene, ovviamente. Volontariato, cioè fare qualcosa, mi rifaccio un po' a Paolo Coelho, cioè piantare, non costruire, cioè della serie, cioè fare un qualcosa in cui ci si crede, no? E che possa dare dei frutti, cioè uno lavora per una cosa che ha piacere di fare, quindi questo io anche di sera lavoro, cioè certe volte anziché vedere la TV mi dedico ad attività che penso possono essere giuste. Giancarlo, lei è il mio ascoltatore ideale e adesso facciamo un'eccezione, posso, dottor Ongaro? Come no, se lo merita Giancarlo. Guardi Giancarlo, dato che io ho 3 libri del dottor Ongaro qua, lei mi ha raccontato in breve talmente tante cose che noi diciamo in trasmissione, che mi auguro che lei sia un ascoltatore assiduo e che dica anche agli amici di scaricare la nostra trasmissione, che le faccio arrivare a casa dal dottor Ongaro "Mangia che ti passa", uno sguardo rivoluzionario sul cibo per vivere più sani e più a lungo. Grazie Giancarlo e complimentoni. Buona giornata a tutti. Abbiamo in linea con noi, è tornato il professor Iannoccari, che ci ha fatto fare un esercizio di logica. A, Z, E, V, queste erano le vocali, hanno una sequenza, una regola, dovete scoprire qual è. Chissà, vedo che lei la sa, dottor Ongaro? No, qua bisogna mangiare più spezie. Non ci ho pensato abbastanza. Lei, dottoressa Reverso? Professor Iannoccari, qua bisogna allenare anche i nostri due. Andiamo da Giampiero della provincia di Lecce. Buongiorno, Giampiero. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, quanti anni ha? 46. Che età si sente? Allora, diciamo qualcuno in meno, va. Dai, tutti dicono qualcuno in meno, ma io ci sono delle mattine che me ne sento 33 di più. E quante tale e che tale danno? Beh, comunque non si sbagliano di molto, si fermano sempre intorno alla quarantina, ecco. Va bene, senta Giampiero, lei mi segnalano dalla regia che ha la sequenza. Sì. Quale sarebbe? Allora, praticamente... le prime due sono la lettera A e la lettera E, sono le prime due vocali, sì. Nonché, quindi sono la numero 1 e la numero 2, mentre le lettere V come Venezia e Z come Zurigo sono le ultime due dell'alfabeto. Sì, e quindi? Lei se dovesse continuare la sequenza, è questo che ci ha chiesto il nostro professor Iannoccari, quali lettere e quali consonanti metterebbe? Metterei la terza e la penultima dell'alfabeto sempre. Cioè? La terza che sarebbe una vocale, quindi la lettera I. Sì. E la penultima dell'alfabeto che sarebbe la lettera I, giusto? La lettera? La penultima, qual è? Mi sfugge in questo momento. Non posso, mamma mia! Giampiero! È l'età, come si suol dire. È l'età, Giampiero. Io la saluto, intanto ci pensi. Giampiero ci ha dato un aiutone, noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Qua che cosa abbiamo bisogno per attivare la logica? Mi dica un alimento per la logica. L'uvetta. L'uvetta, andate di uvetta! Essere e benessere. professor Iannoccari è lì, pronto, pronto per noi. Gianni da Vercelli. Gianni, ha mangiato l'uvetta? Buongiorno. Gianni? Ok, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, ha mangiato un po' di uvetta? Certo, stamattina ho mangiato una bella fetta di panettone. Senta, lei ha la risposta? Sì, dunque la sequenza è praticamente quella che ha detto l'ascoltatore precedente. Praticamente la I seguita dalla T e la O seguita dalla S. Professor Iannoccari? Ci siamo! Ci siamo! Ci siamo! Gianni da Vercelli, le faremo arrivare a casa il libro Mangia che ti passa del dottor Ungaro, perché oltre al panettone troverà anche delle indicazioni per il panettone, assolutamente. Poi c'è stato San Biagio, due panettoni al prezzo di uno, fantastico, ma c'è di più, possiamo dire così. Sì, se ragiona Ungaro così bene col panettone, figuriamoci se evita il panettone e mangia un po' più sano, cosa succede? Grazie a Gianni da Vercelli, professor Iannoccari. Eccomi. Allora noi continuiamo ad allenarci. Certo. Ricordiamo Mentathlon per chi volesse sfidarsi. Mentathlon, sì, dal 30 di gennaio è possibile iscriversi a questa maratona nazionale sul sito mentathlon.it o anche giocando sul social network Facebook. L'iscrizione è gratuita, ci si sfida tutti insieme. I partecipanti sono distinti per fasce di età, per cui ognuno si confronta con i suoi coetanei. Sì. E poi avremo la finalissima il 12 di maggio alla Fiera di Rimini. Fantastico, cui... tutti cervelloni. Tutti cervelloni. E dica anche ai partecipanti di andare d'uvetta, giusto, dottoressa Reverso? Oltre all'uvetta, cosa ci mettiamo? Va bene, mandorle, eccetera, qualche cosa di più sostanzioso? Di più sostanzioso? Ma perché non ci facciamo un buon pane fatto con delle farine miste in cui possiamo mettere tutte queste cose, le mandorle, l'uvetta, eccetera, ma anche i semi di lino? E non ci pensiamo più. Professor Iannoccari, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Io prima di chiudere vi vorrei parlare di New Age. È un progetto di ricerca dell'Unione Europea per studiare gli effetti dell'alimentazione sull'invecchiamento. Coinvolge, pensate, 1250 volontari provenienti da diversi paesi e vede in prima fila nella sua realizzazione l'Università di Bologna. E in linea con noi abbiamo il professor Claudio Franceschi, docente di immunologia e patologia molecolare e direttore del Dipartimento di patologia sperimentale all'Università di Bologna, che coordina questo bel programma. Buongiorno professore. Buongiorno. Sono molto contenta di conoscerla e soprattutto sono contenta di questo progetto che vede il coinvolgimento dell'Unione Europea. Che cosa fate? Arruolate? Arruoliamo diversamente giovani. Delle persone, esatto, delle persone tra 65 a 79 anni fra l'altro 250 di queste le arruoliamo a Bologna, quindi se c'è qualche bolognese in ascolto poi ci contatti. E gli proponiamo di seguire per un anno una dieta mediterranea ricca di olio d'oliva, ma anche rafforzata di vitamina D e di altri nutrienti importanti per gli anziani, per un anno. E l'idea di fondo è che una dieta mediterranea di questo tipo dovrebbe diminuire quello stato infiammatorio che si sviluppa nell'invecchiamento, che io ho chiamato inflammaging, che è un'ipotesi scientifica importante, e che questo stato infiammatorio è responsabile delle maggiori patologie associate all'età, alle malattie cardiovascolari, al diabete, alla demenza. Quindi l'idea è che la nutrizione appropriata possa ritardare l'insorgenza di queste malattie, fungendo da ombrello e proteggendo le persone anziane contro questo stato infiammatorio così importante. Per cui, perché proprio è questo processo infiammatorio che avete scoperto che essere alla base di quelle malattie che noi chiamiamo anche questo, malattie del benessere. Esattamente, questo diciamo è un'idea che noi siamo stati fra i primi a proporla, ma che adesso è largamente accettata. Oggi si punta su appunto nutrizione e attività fisica come i due grandi interventi, possibilità di intervento per modificare la condotta delle persone per avere un invecchiamento molto più sano. La cosa importante per gli ascoltatori è quella di considerare la nutrizione non solo da un punto di vista di calorie, dal punto di vista di peso corporeo, eccetera, ma la nutrizione oggi noi sappiamo che ha un effetto molto profondo dal punto di vista biologico, sì. Cambia il funzionamento delle cellule, può accendere e spegnere l'attività dei vari geni del metabolismo, certo. E noi stiamo usando prima e dopo questa dieta di un anno, faremo degli studi utilizzando le tecnologie più avanzate che sono l'epigenetica, la metabolomica. Che nomi difficili. Cioè sono nomi difficili, ma dicono praticamente che andremo a cercare nelle urine delle persone con la risonanza magnetica nucleare questi metaboliti correlati con l'infiammazione, che andremo a studiare la flora intestinale così importante per il passaggio da quello che mangiamo a quello che assorbiamo. Facciamo degli studi di immunologia e di genetica avanzata e quindi applichiamo queste grandi, nuove, potenti tecnologie proprio per capire meglio l'effetto della dieta mediterranea nel ridurre, nel prevenire anche questa infiammazione, per prevenire le grandi patologie. Ecco, lo studio, allora, bolognesi, arruolatevi, a chi si devono rivolgere, professore? Si devono rivolgere al Dipartimento di Patologia Sperimentale dell'Università di Bologna. Vi do il numero di telefono, 051 il numero di sì, provi, poi lo mettiamo anche su 209 47 e 4 e 5 8. Anche lei ha bisogno di un po' di uvetta, professore, che per no, perché ho tanti numeri di telefono. No, senta, no, sto scherzando, professore, però voi iniziate arruolati 65 anni, ma noi a Essere Benessere è da tempo che invitiamo gli ascoltatori a non guardare solo le calorie, ma a guardare il cibo proprio come una sorta di alimento amico, di farmaco, anche se non mi piace usare questo termine. Qua abbiamo il dottor Ongaro e la dottoressa Reverso che ci aiutano con delle con costanza a prendere il meglio dell'alimentazione, imparare a scegliere. Noi potremmo farlo, voi arruolati 65 anni, ma noi a Essere Benessere seguiamo proprio tutti gli ascoltatori. Si può iniziare a evitare, contrastare l'infiammazione da subito. Certo, questo è un messaggio molto importante. Si deve cominciare da giovani per avere un invecchiamento il migliore possibile. Grazie professor Franceschi per essere stato con noi. Ricordiamo New Age, grazie, un progetto di ricerca dell'Unione Europea. Dottor Ongaro, dottoressa Reverso, abbiamo 30 secondi a testa per lasciare un messaggio da portarci via. Oggi, per continuare ad avere un'età biologica straordinaria. Ma io credo che sia importante quello che ha detto il professor Franceschi. Sempre più studi stanno dimostrando come l'alimento sia un qualcosa di molto potente nel nostro organismo. Dobbiamo rieducarci tutti a utilizzarlo come metodo preventivo d'elezione. Dottoressa Reverso, oltre all'uvetta? Oltre all'uvetta possiamo usare i semi oleosi, girasole, lino, zucca, semi di sesamo. Ricordiamoci anche appunto le spezie e le erbe aromatiche, uvetta e quant'altro. In questo weekend sperimentate. Grazie alla dottoressa Reverso, al dottor Ongaro, grazie a voi che ci avete seguito. Fate una bella cosa questo weekend. Provate, sperimentate e scaricateci. Tornate lunedì. Buona giornata.